effetto. Qua cermo di metafore che esprimono un concetto. Assoluto e perfetto. Un colpo diretto assestato al sistema dal profondo del ghetto spirituale in cui voglio relegarci ad affogare in quel mare di capire in passato è solo di quella morale. Sì, falso opportunista che usa la censura come arma di difesa e sparavista su quanti, credimi non tanti, rifiutano ogni forma di controllo messo in atto dai potenti, dai signori che controllano l'opinione, da quelli che correggono le bozze del copione, chiamato informazione in scena tutti i giorni sugli schermi di un'intera nazione. Questo è il veleno che ci vogliono inoculare. Non esiste antidoto e la morte mentale. Opponi resistenza, non farti plagiare. Se non ti vuoi ridurre in uno stato terminale, nella stasi comatosi ti è incapace di pensare. Preferisce lamentarsi se qualcosa gli va male. Agire! E allora siete sull'1359 in onde medie. Questo è Radio Wombat. Ormai lo sapete e tutti i nostri amici, amiche, ascoltatori e ascoltatrici, è lo spazio radiofonico della stampa rassegnata, trasmissione in cui ci occupiamo prevalentemente di ciò che la cronaca cittadina ci riporta, e nel tentativo di dare sempre uno sguardo critico e radicale a quello che succede intorno a noi, con un particolare riferimento alle due vertenze popolari che animano ormai da anni l'area metropolitana fiorentina, quella contro la costruzione dell'inceneritore di Firenze, o più precisamente Case Passerini, e la vicenda ben più larga e articolata della riorganizzazione di tutta l'area metropolitana nord-ovest attraverso il nuovo aeroporto. Questa settimana ci vorremmo occupare un pochino più nello specifico, facendo tra virgolette un focus sulla vicenda dell'inceneritore di Case Passerini, che da tempo abbiamo visto andare un po' in declino, quantomeno nello spazio occupato dalle cronache, se ricordiamo per esempio i momenti di esploa anche mediatico che questa vicenda ha avuto intorno al 2015-2016, se ne sta parlando molto meno. Abbiamo visto dall'altra parte degli articoli in qualche modo anche confortanti sull'aumento delle percentuali di raccolta differenziata, però sappiamo nello stesso tempo che la lotta non è del tutto finita, magari dovrà riorganizzarsi in virtù di alcuni avvenimenti rilevanti anche come ho detto incoraggianti, e per noi che possiamo acquisire anche come movimento contro le nocività e contro l'incenerimento dei rifiuti e in lotta sul ciclo, come degli obiettivi raggiunti, per esempio quello che è successo proprio con la vicenda di Cutermo, che ha chiesto le autorizzazioni, nuove autorizzazioni alla Regione Toscana e se le ha viste rifiutare. E questo focus di oggi lo vogliamo fare con una voce che ormai è familiare al movimento contro le nocività, che è quella di Barbara, una mamma no inceneritore che abbiamo al telefono con noi e salutiamo. Ciao Barbara. Buonasera a tutti gli ascoltatori, collegamento con Radio Wombat. Bene, e niente, insomma, a Barbara, questo che era già in collegamento con noi, che ha sentito questa mia brevissima introduzione, gli chiediamo un po' che succede e che succede all'interno delle riunioni, delle assemblee, delle mamme, come sta andando la lotta e che sta succedendo per quanto riguarda appunto l'inceneritore di Firenze. Dici te, Barbara. Allora, io partirei dal fatto che Termo, dopo la sentenza del Consiglio di Stato del 24 maggio scorsi, ha tentato di arrampicarsi sugli specchi avanzando richiesta alla Regione Toscana di avviare un altro procedimento, e quindi chiedeva di ottenere una nuova autorizzazione, tralasciando il motivo che aveva determinato appunto l'annullamento definitivo dell'autorizzazione di Stato per la mancata realizzazione delle opere di compensazione, i cosiddetti boschi della Piana. Quindi Cutermo sembra proprio ignorare il peso che questa sentenza in Consiglio di Stato ha avuto, e fortunatamente però la Regione Toscana, per dirla in maniera molto, come dire, molto papale, ha risposto picche, e questa istanza, di questa richiesta da parte di Cutermo non può essere accolta, in quanto che cosa succede, mi rendo comprensibile a tutti. Realizzare delle opere di compensazione prima che venga realizzata un'opera così importante e impattante dal punto di vista ambientale, significa che il bosco deve essere già maturo. Non si tratta di piantare due alberini e una volta piantati due alberini allora io posso realizzare l'inceneritore. E quindi è assolutamente incongruente questa nuova richiesta, infatti è stata respinta all'istante. Poi c'è stata anche una dichiarazione di Moretti, e ora passo, vado a considerare l'aspetto economico della faccenda, sì. Ovvero sia, quando abbiamo sottolineato che oltre al piano legale, quindi Consiglio di Stato e quant'altro, sul piano economico la BEI, con l'annullamento dell'autorizzazione per questo impianto, ha ovviamente annullato gli 80 milioni previsti per il finanziamento di quest'opera, e io lo chiamo patron, e il patron Borghetti ha pensato bene di uscirsene dicendo: beh, qual è il problema se ci vengono legati questi 80 milioni? Vorrà dire che aumenteremo la tassa. E ci cioè, è veramente un atteggiamento di presunzione e di arroganza assoluta rispetto alla quale, se avevamo dei dubbi in merito, ce li toglie tutti in sostanza. Ecco, questi sono appunto i risvolti economico e legati ultimi. Per quanto riguarda invece quello che bolle in pentola nelle intenzioni delle mamme per continuare la loro attività, perché ovviamente la cancellazione di questo nefasto progetto era l'obiettivo per le quali il comitato si è costituito, però la nostra finalità poi si orienta a promuovere ulteriormente sensibilizzazione tra i cittadini attraverso iniziative appunto sempre legate alla riduzione dei rifiuti, al loro riutilizzo, a spingere affinché crei un movimento dal basso che porti alla diminuzione degli imballaggi che ci stanno soffocando. Quindi le nostre azioni adesso vogliono trasformarsi in sensibilizzazione a un modo di vivere più sostenibile e più rispettoso dell'ambiente. Bene, benissimo Barbara. E senti, ti volevo chiedere un'altra cosa a beneficio dei nostri ascoltatori e ascoltatrici, per fare, se è possibile, un po' di chiarezza, anche se, come sappiamo, la materia è sempre molto ingarbugliata e muoversi non è scontato. Però insomma, nella convinzione che le competenze, le voci, le impressioni, le analisi dei movimenti, delle associazioni e di chi si impegna in prima persona come abitante, come cittadino semplice e non necessariamente come professionista che maneggia una materia in maniera appunto accademico o professionale, ma possano essere sufficienti a capire e delucidare. Si è visto più volte sui giornali questo ricatto che viene continuamente esercitato delle famose penali di milioni o centinaia di migliaia di euro che con soldi pubblici dovrebbero essere pagati per il ritiro o per la decisione di tornare indietro su dei progetti. E chiaramente il patron Moretti o a suo tempo anche il caro Nardella o il vecchio Giannotti hanno utilizzato questo argomento ricattatorio delle penali moltissime volte, e anche recentemente quando sono stati ripresentate le autorizzazioni da Q-Termo e negate alla regione, abbiamo visto questo tentativo. Ma queste penali ci sono davvero? Sono un'invenzione? Sono una mezza verità o una vera e propria fake news? Come le possiamo considerare? Allora, io mi ricollego a un precedente molto vicino a noi, cioè l'annullamento dell'autorizzazione per la realizzazione dell'inceneritore di Selva Piana. Sì. In quel caso i soldi riconosciuti per appunto per l'investimento legato alla progettazione, a tutto l'iter burocratico, ovviamente ha dei tempi, dei costi, consulenze e quant'altro. Ecco, in quel caso ci fu una ricompensazione dell'ordine dei 2 milioni di euro, però noi abbiamo visto dei proclami altisonanti sui giornali, 4, 10, 14, ora posso anche sbagliarmi, comunque le cifre diciamo così sparate sono state abbastanza altisonanti. Sì, quindi, sì, mi pare avessero parlato di 20 milioni, uno dei recenti articoli su Repubblica. Che non hanno ragion d'essere, proprio delle buttate, viene da dire, no? Quindi senz'altro ci saranno stati dei costi da parte della società che ha proponente, però voglio dire 20 milioni è una cifra paradossale, quindi possiamo considerare delle cifre soltanto con le carte in mano, con dei dati riscontrabili, perché altrimenti diventa una farsa, ecco. Quindi ripeto, nel caso di Strada Piana sono riconosciuti 2 milioni di euro, non ho idea, da cittadina ovviamente sono un attivista, però ripeto, senza le carte in mano non si può definire una cifra congruente. Queste cifre altisonanti sui giornali sono solo delle putate che lasciano il tempo che trovano. Ecco, sì, tentativi di condizionare l'opinione pubblica intorno alla lobby dell'incenerimento che mai si vuole arrendere. E senti Barbara, un'altra curiosità, ma Giannotti che fine ha fatto? Non è più il frontman di Alia dopo tanti anni sulla cresta dell'onda di rifiuti, dell'indifferenziato, della difesa sparatratta e l'incenerimento, ma dove è andato a finire il vecchio Livio? Il vecchio Livio è stato assegnato a un altro ente, ora perdonatemi, non mi ricordo, però penso che la sua stagione l'abbia ampiamente potuta svolgere e quindi è bene che sia dove sia e lasci lo spazio ad altri. Quello che obiettivamente adesso veramente manca, perché c'è stato appunto un annullamento sul piano legislativo, c'è stata un bel arresto dal mancato finanziamento da parte della BEI. Certo. Quello che noi veramente adesso vogliamo sono due importanti punti imprescindibili. Il primo è lo stralcio di questo progetto dal piano regionale dei rifiuti, perché ricordiamoci che nonostante tutte le promesse di Rossi, noi non abbiamo visto ancora nulla nel piano dei rifiuti e il sospetto che nutriamo è che siccome a maggio del 2020 si voterà sulle regionali, il Rossi non abbia voglia di rompersi tanto le scatole per essere molto fini e molto papali, dico io, e quindi non abbia tanta voglia di mettersi all'anima un nuovo piano dei rifiuti, sebbene avesse volte fatto delle aperture in merito dicendo sì, entro la fine dell'estate, poi settembre si comincerà a ragionare sul nuovo piano dei rifiuti, ma noi ad oggi, febbraio 2019, non abbiamo visto nulla e ci sembra che non ci siano proprio intenzioni in merito. Il secondo punto fondamentale a questo punto, Cutermo S.P.A., la società sì. Cutermo S.P.A. non ha alcun motivo di esistenza. Certo, visto che non giusto. Ci sono i presupposti perché l'opera venga realizzata. cioè era stata costituita, hai fatto bene a dirlo, a specificarlo, e diciamolo in modo, insomma, ripetiamolo, perché ripetita Juvent, che Cuttermo era nata proprio per la gestione dell'impianto di incenerimento, quindi da una fusione di Alia SPA da una parte, che prima ancora era Quadrifoglio per chi fosse ancora legato ai vecchi simboli, alle vecchie denominazioni, Alia ha sostituito Quadrifoglio. Dall'altra parte arrivava questa multi-utility emiliana, il gruppo era appunto dall'Emilia, ma era nata la società esclusivamente per la gestione dell'impianto. Quindi se l'impianto non si fa, si potrebbe anche sciogliere Cuttermo, visto che anche quella ci costa. Loro parlano di penali, sempre di soldi pubblici, ma anche l'esistenza di questa società noi la paghiamo, la pagheremo molto probabilmente in bolletta, come sempre succede, no? Certo, purtroppo è così. E credo che giustamente il sospetto e diciamo l'indicazione che date, che stai dando, è quella di vedere anche nel continuo esistere di questa società un'ipoteca rispetto a un'inversione di tendenza nella gestione del ciclo dei rifiuti, perché fino a che c'è questa società resta insomma un elemento di pressione su tutto il ciclo politico e imprenditoriale. Sì, sostanzialmente i segnali per cambiare, voltare strada, per cambiare strada, per cambiare pagina ci sono tutti, però passionatamente la politica fatica a recepire questi messaggi e fa sostanzialmente orecchie da mercante ad oggi, non ci sono volontà così stringenti di dare una sferzata innovativa a tutto il discorso, ma comunque evidenziato che in realtà ad esempio come Calenzano, Fiesole, Campi Bisenzio, la raccolta porta a porta si sta pian pianino diffondendo. Però sono dei segnali che dovrebbero essere più incisivi. Su Firenze non si sente proferire parola e il centro storico spaccatamente è gestito in maniera veramente vergognosa. Mi viene in mente la zona appunto tra il Duomo e Sant'Ambrogio, nelle stradine quelle piccole dove non sono Carrarsi ad esempio, sì. Sono soltanto cassonetti dell'indifferenziato. E poi che c'entra? Ci sono le isole degli interrati che sono state semplicemente 45.000 euro, 50.000 euro a blocco, sì. Dove spassionatamente sì, ci sono i cartelli adesivi con l'immagine, le scritte anche in inglese di quello che ci va conferito, però se gli agenti atmosferici degradano queste scritte adesive, cioè alla fine i cassonetti sono indistinguibili l'uno dall'altro, quindi si ripete il problema della qualità, della differenziata che non c'è, nel senso noi siamo ancora inquidati attorno al 52% di raccolta differenziata, però non si parla mai della qualità. Allora, se io apro un cassonetto della carta, e come mi è successo, per carità, grazie a Dio, soltanto una volta, ma a me è successo di trovarci un lavandino, oppure una collega di lavoro, un giorno fa, ma lo sai che nell'organico mi sono trovata una sedia pieghevole? Ecco. Io parlo ancora dei cassonetti vecchia generazione, quelli con lavandina. Non parlo degli ultimi cassonetti, quelli con la chiavetta, cioè i cassonetti a calotta. Sì, comunque sì. Il concetto non cambia. Quando l'utenza viene lasciata, quando è discrezione dell'utenza, il conferire in un cassonetto piuttosto che un altro rifiuti, se l'utenza è attenta ed è responsabile è un conto, se no io vedo tranquillamente gente che apre il primo sportello disponibile e ci ficca dentro quel che gli gira, e non è così

la mission forse della nostra, di questo nostro spazio, quello di dare un'occhiata alle cronache. Si parla di rifiuti quasi sempre ed esclusivamente in termini di decoro urbano, no? Quindi se il rifiuto è lasciato fuori, la campagna fatta da Nardella sull'abbandono degli ingombranti, che per carità è anche giusto in qualche modo colpire su questo aspetto dell'immaginario degli abitanti, no? Perché è vero che poi fanno anche degrado e sono un problema anche di decoro, ma non sono solo questo, quindi giustamente bisognerebbe lavorare per invertire la tendenza a partire da un sistema di raccolta che sia diverso. Siamo convinti di questo in maniera totale, anche per le ricadute positive che avrebbe in termini occupazionali, cosa di cui si parla sempre troppo poco, e di lavoro si parla per lo più legato a questa esigenza devastante di grandi opere, di nuove infrastrutture, che poi sono infrastrutture per lo più pesanti e impattanti, e mai invece si parla del lavoro che ci sarebbe aumentando la quantità di lavoro vivo rispetto a quella di capitale morto dentro un processo come per esempio quello della raccolta dei rifiuti. E ti volevo, Barbara, l'ultima battuta tra virgolette, se così si può dire, anche perché raggiungiamo la mezz'ora e è il tempo che ci eravamo in qualche modo promessi, ti volevo chiedere: come Mamme No Inceneritore avete messo da tempo al centro del vostro discorso la questione della salute e della salvaguardia ambientale? E noi abbiamo purtroppo inaugurato anche quest'anno solare tra dicembre e gennaio, appunto lo abbiamo inaugurato con sforamenti delle centraline, sia di quelle dell'ARPA, ma ancor di più del sistema di monitoraggio della qualità dell'aria dal basso, che è stato per l'appunto costruito e è ancora work in progress grazie al lavoro delle Mamme No Inceneritore, che ci segnalano non solo le PM10 come fanno le centraline dell'ARPA, ma anche quelle più pericolose, che sono di 2,5. E insomma abbiamo inaugurato l'anno con degli sforamenti non da poco, eppure di queste cose è un po' come mi viene da dire, facendo un, non, credo non stiracchiando il problema ma allargandolo, è un po' come quando si parla del cambiamento climatico, insomma nessuno, o perlomeno i poteri forti, non lo vogliono prendere in considerazione. E non basta la piccola Greta che dalla Svezia coraggiosamente mette in discussione le scelte politiche dei governanti, mette in discussione anche le grandi assemblee sovranazionali. Purtroppo c'è bisogno di ben altro. Insomma, quello che sta succedendo dal punto di vista della salute è un quadro abbastanza preoccupante o no, per quello che state osservando anche rispetto alle centraline? Allora, tu ci stai appunto dicendo il corso del progetto Chiaria Tira, che appunto riguarda l'autoproduzione di centraline in collaborazione però anche con professori dell'Università di Firenze, perché ovviamente affinché un sistema di rilevazione abbia un suo peso scientifico ha bisogno di un supporto di specialisti come sono i professori dell'Università di Firenze. Sì. E diciamo questo, il progetto è in essere dal 2017, primavera 2017 è stato attivato un crowdfunding grazie al quale sono stati raccolti 15.000 euro. E questo per appunto per partire col progetto che vede già nella Piana Fiorentina diverse postazioni. Sì. Il problema che si pone è il seguente, cioè dal 1 gennaio al 1 di dicembre praticamente vengono calcolate le giornate totali di sforamento che dovrebbero attestarsi entro un range limite di 80 giorni. Qualcuno esperto di me in questo momento mi corregga se sbaglio, non ho avuto modo di controllare, ma il punto è questo, non è che passato un anno si azzerano gli effetti. tutti degli sforamenti. Questi sforamenti hanno un peso cumulativo, cioè non è che i miei polmoni dicono ah beh, è finito un anno, i polmoni si rigenerano e sono pronti a assorbirsi altri sforamenti. Quello che sfugge, o meglio, quello rispetto a cui la politica è sorda, è il valore cumulativo di tutti gli inquinanti che si sommano, dalla presenza appunto delle emissioni in atmosfera, da appunto traffico veicolare, traffico aereo, l'uso di sostanze pesticide in agricoltura, e uso di sostanze chimiche per XY motivi. Alla fine noi in atmosfera ci veniamo a trovare davanti a una situazione di mix esplosivo, un cocktail esplosivo che noi ci rendiamo. E io sono rimasta piuttosto impressionata, amareggiata. Spiacevolmente colpita dal venire ad apprendere che in una, ora si parla, ora passa dal punto di vista del cambiamento climatico, sono rimasta particolarmente amareggiata nel venire ad apprendere che in una foresta protetta ambientalmente in Polonia sono scomparsi negli ultimi 20 anni un sacco di insetti, e quella è un'area protetta. Allora il segnale che sta lanciando la ragazzina svedese Greta è sì un segnale che proviene dalla cittadinanza attiva, però ricordiamoci un evento molto molto significativo che è stato una proposta significativa che è stata lanciata, cioè il 15 marzo vengono invitate tutte le scuole del mondo a scioperare per sensibilizzare i potenti sull'emergenza del clima. Davvero. Tutti gli insegnanti, gli operatori scolastici all'ascolto, i genitori, vi chiedo di informarvi rispetto a questa iniziativa in modo tale da coinvolgere anche i vostri figli, i vostri conoscenti, perché è il primo argomento all'ordine del giorno se noi vogliamo darci una possibilità di futuro che giorno dopo giorno sembra messo sempre di più a rischio. Sì. Ecco, il 15 marzo è una data da annotarsi sul calendario, e a seguire il 23 marzo invece a Roma ci sarà una manifestazione nazionale contro le grandi infrastrutture, opere inutili, dannose sia per l'ambiente che la salute, e anche dal punto di vista economico, perché non portano ricchezza alla popolazione, bensì sottraggono capitali utili a essere reinvestiti in quelle opere diffuse e delocalizzate che rimettono in moto l'economia, come ad esempio potrebbe essere un centro del riuso e del riciclo che come mamma e inceneritore vorremmo che venisse realizzato nella piana fiorentina, ad esempio. Magari. Quindi dalla raccolta differenziata porta a porta si va poi a realizzare un centro che valorizza le materie seconde. Bene, bene davvero. Sì, quindi la suggestione del climate strike, no? O sbaglio? Mi sembra che la definizione gli è stata data è questa qui. Sta parlando di questo. Il 15 marzo il climate strike, il 23 marzo la marcia per il clima contro le grandi opere che viene dalla Val di Susa, ma non solo, attraversa un po' tutta la penisola fino al Nomos in Sicilia, passando per il Motriv, passando a, ovviamente anche per noi qui nella piana fiorentina, impegnati da tempo in difesa della salute, del territorio, dell'ambiente, contro l'inceneritore, il nuovo aeroporto, e insomma ce ne hai date anche di prossimi appuntamenti, perché è giusto insomma partire da quello che abbiamo fatto ma guardare a quello che dovremmo fare. Mi sembra che la parola d'ordine resta quella di tanti anni fa: non bruciamoci il futuro. E niente, credo che è una responsabilità comune, sì. E fortunatamente trovo molto più intelligente e proficuo fare qualcosa ognuno nel proprio piccolo, perché ognuno di noi ha le proprie qualità, le proprie risorse. Trovo molto più intelligente attivarsi che starsene sul divano o lamentarsi che tanto non c'è niente da fare. Ecco. Spassionatamente, se io non pensassi di poter contribuire con la mia piccola parte a migliorare il mondo in cui vivo, non mi alzerei neanche dal letto la mattina. Ecco. Lo troverei molto frustrante alzarmi con l'idea: non posso fare nulla, ecco. Cioè, troppo... non mi alzerei nemmeno, fortunatamente parlando. Quindi un invito a tutti: nel vostro piccolo, anche qualcosa di piccolo può fare la differenza. Eh sì, no, e poi anche perché se si sta troppo sui letti o sui divani, poi si va a male e poi veniamo buttati via nell'indifferenziato dai dipendenti di Moretti. Quindi insomma, alziamoci dai divani e diamoci da fare. Bene, allora Barbara, un abbraccio, un ciao, e con te e con tutti speriamo di vederci nei prossimi appuntamenti di questi mesi. Grazie della disponibilità. Ciao ciao ciao ciao. E ora invece faremo un collegamento, daremo uno spazio a una piccola diretta che abbiamo fatto dal presidio che si è svolto per l'appunto lunedì in questa settimana, di fronte all'aeroporto di Peretola, dove credo più o meno tutti sappiate, anche perché queste cose difficilmente passano inosservate, c'è stata una delle tante kermesse che fanno da propaganda politica, da propaganda e da campagna elettorale permanente, sia del Partito Democratico Fiorentino, nello specifico del suo uomo di punta, cioè Dario Nardella, che è ancora sindaco, e è venuto a dare manforte e visibilità a questo appunto di inaugurazione della linea tranviaria che dall'aeroporto di Peretola va verso Santa Maria Novella, sia il Presidente della Repubblica Mattarella sia Toninelli. Ecco, soprattutto la venuta a Firenze di Toninelli, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, che ha in qualche modo colpito come una provocazione la Firenze e la Piana, che da anni si oppongono alla costruzione dell'aeroporto. Come sapete e come abbiamo già detto, la Conferenza dei Servizi di questa del 6 febbraio ha dato parere positivo al master plan per lo sviluppo aeroportuale presentato da Toscana Aeroporti, un master plan di cui in questi anni abbiamo parlato a lungo anche nel dettaglio, per tutte le sue criticità, per tutte le sue problematiche, per le tantissime forzature anche da un punto di vista legale amministrativo con e attraverso le quali questo master plan e questo progetto di sviluppo è arrivato fino a qui. Insomma, tra una forzatura e l'altra, tra una forma di pressione e l'altra, tra un adeguamento di legge e l'altro, siamo arrivati all'autorizzazione sostanzialmente finale, che è quella della Conferenza dei Servizi. Il Movimento 5 Stelle, nei panni di Toninelli, che di fatto era e costituiva l'ago della bilancia di tutta questa vicenda, che è rimasta appesa proprio al filo del governo fino all'ultimo momento, ha, smentendo tutte le dichiarazioni pubbliche fatte fino a qui, dato l'ok a questo progetto di sviluppo. Quindi una delle tante vicende con le quali il Movimento 5 Stelle si è misurata con la nuova posizione di essere forza di governo, e attraverso la quale ci permette di osservare una parabola discendente e assolutamente tipica di molte forze politiche moderate, che una volta arrivate al potere preferiscono pattare e negoziare la propria sopravvivenza con i poteri forti piuttosto che dare seguito alle dichiarazioni e alla propaganda elettorale che si è fatta. Abbiamo visto il cedimento, il totale smottamento che c'è stato sulla questione, diciamo, dell'obbligo vaccinale, che le associazioni che si sono battute in questi anni e che continuano a farlo hanno commentato in maniera molto secca e drastica come tradimento a 5 Stelle. Abbiamo visto la stessa forma di tradimento per quanto riguarda la TAP, lo abbiamo visto per quanto riguarda le trivellazioni e le esplorazioni petrolifere in Basilicata e nel mare Adriatico, abbiamo visto il il tentennamento continuo rispetto alla questione dell'alta velocità in Val di Susa e molte altre grandi e medie opere, e anche nella nostra piana fiorentina abbiamo assistito a questo tipo scusate la piccola laringite che mi ha colpito, insomma abbiamo visto anche questa vicenda sulla nostra piana, dove appunto Toninelli, contrariamente a quello che aveva sostenuto finora, ha dato questo ok, e questo ok è stato certamente vissuto in maniera non infantile, non ingenua, dal movimento che si batte nella piana da anni, che però insomma, senza nasconderlo, come è avvenuto in altre situazioni, in qualche modo tra gli attivisti, le attiviste, le organizzazioni, comitati, le associazioni, le realtà collettive, c'era stata anche un po' di speranza che il Movimento 5 Stelle potesse essere utilizzato in qualche modo come scudo rispetto alle pressioni e alla voracità del sistema Stato-imprese che si vorrebbe appropriare di questi territori per trasformarli in pista di 2400 metri per moltiplicare in modo esponenziale, insomma, il traffico aereo. Traffico aereo che, come sempre diciamo, è diventato un vero il proprio problema planetario, proprio perché continua a crescere, il consumo di combustibili fossili legato agli spostamenti aerei, sia di merci che di persone, e perché anche le zonizzazioni sul rumore, crescendo il traffico aereo e crescendo esponenzialmente gli aeroporti, stanno coinvolgendo e interessando molte più persone di quanto non fossero interessate ovviamente 20 o 15 o anche solo 10 anni fa. Lo stesso succederà nella nostra piana fiorentina, e quindi le preoccupazioni sono a tutti i livelli, non ultime anche quelle economiche, perché questi 150 milioni di euro, che secondo noi servono solo per cominciare il progetto, sono comunque soldi pubblici che metterebbe il governo. E, insomma, il movimento non si è arreso e non si arrende, perché il 7 di febbraio, dopo la firma del 6 di febbraio, quindi dopo l'ok della conferenza dei servizi, c'è stato subito una insomma interessante e curiosa striscionata che si è tenuta proprio sui terreni, perché di fatto gli attivisti e le attiviste sono andati e siamo andati nella zona tra il presidio Non ce ne ritorno in un aeroporto, su via dello Smannoro, e al polo universitario, che è certamente uno dei luoghi centrali della resistenza e anche della possibile insomma interessato, diciamo, dalle trasformazioni proprio da vicino, per tutta la vicenda anche progettuale che li vede veramente a ridosso della futura pista, con la famosa duna antirumore di 1,5 km, alta 10 metri, che di fatto blinderebbe, murerebbe tutta la zona del polo, quindi diciamo non solo compromettendo una possibile eventuale futura espansione come previsto anni fa dall'Università di Firenze, ma condizionerà eventualmente, se mai verrà fatto, anche l'attuale situazione del polo universitario. E quindi proprio in quella zona, su quei terreni, sono andati gli attivisti per pubblicizzare, promuovere, lanciare immediatamente e a caldo la manifestazione che si svolgerà il 30 di marzo. Manifestazione sulla quale ancora sono aperte, diciamo, le discussioni, le assemblee popolari e le riunioni per le decisioni tecniche, che sono poi sempre anche politiche, sul percorso, su dove si va, si invitano i sindaci, dove stanno i sindaci, come si organizza le ispezioni. Quindi insomma la discussione è aperta, però intanto nel calendario è stata bloccata la data del 30 di marzo, che chiaramente anche da questi microfoni cogliamo e rilanciamo insieme a loro. Non è stato l'unico appuntamento di questi giorni, perché appunto oggi, lunedì, per questa visita di Toninelli, più che Mattarella, che insomma, voglio dire, si trascina un po' come la classica cariatide che va a mettere il sigillo papale, il sigillo vescovile sulle vicende nazionali, ma soprattutto l'arrivo di Toninelli è stato guardato con sospetto, e gli attivisti hanno risposto andando a contestare la inaugurazione della tranvia e la presenza di Toninelli e Nardella, che ancora insieme parlano di infrastrutture, parlano di grandi opere, a partire sia dall'aeroporto di Firenze appena autorizzato e anche dalla ripresa dei lavori della TAV, cioè del nodo di alta velocità fiorentino, tanto contestato, per ora fermo dal punto di vista dell'esecuzione e che però Nardella e Company vorrebbero che insomma i lavori riprendessero e continuano a chiederlo ai poteri forti e anche compreso al ministro Toninelli. Quindi ci facciamo questo collegamento di pochi minuti con uno degli attivisti che era sul posto durante la contestazione. Sì, ciao, siamo qui davanti all'aeroporto di Peretola per contestare la presenza di Nardella, Toninelli, Rossi e tutti quegli altri, Carrai e tutti gli altri che sono compatti, quindi dal centro-sinistra al centro-destra, alla Lega e al Movimento 5 Stelle che si è sempre pronunciato contro l'ampliamento dell'aeroporto, ma in conferenza dei servizi ha dato il suo benestare. E siamo qui all'inaugurazione della tranvia proprio per dirgli appunto che la gente della Piana non vuole l'ampliamento dell'aeroporto, che avrà grossissime ricadute sulla salute degli abitanti, dei cittadini. Vogliamo invece il parco della Piana, il parco che da tanto tempo viene promesso e che invece verrebbe totalmente distrutto da questa grande opera inutile e dannosa. Le macchine sono appena uscite dall'aeroporto, come potete immaginare c'è un grossissimo dispiegamento di forze di polizia, e ci hanno tenuto fuori dall'aeroporto, non ci è consentito neanche attraversare la strada. E con questo appuntamento vogliamo rilanciare anche la data del 30 marzo. 30 marzo ci sarà un grande corteo contro l'aeroporto e per il parco, e diamo appuntamento a tutti appunto per questa data e invitiamo tutti a tenere d'occhio le pagine Facebook, i siti e quant'altro per tenersi aggiornati sulle prossime iniziative di mobilitazione. Ciao a tutti. Bene, ringraziamo Vipera per questo collegamento e poi lo dovremmo ringraziare anche per fornirci delle informazioni e delle delucidazioni che gli abbiamo chiesto in merito al presidio che si svolgerà mercoledì di fronte alla Leonardo. Purtroppo la principale fabbrica di morte high tech, le ex officine Galileo che si trovano a Campi e che producono armamenti, insomma armamenti che poi vengono impiegati in tanti conflitti, non ultimo, anzi in modo molto importante, quello che alcuni paesi con particolare importanza e particolare rilevanza, la Turchia, conducono contro la lotta di liberazione del popolo curdo che va avanti da molti anni e che in questi anni, attraverso anche lo sviluppo del confederalismo democratico, ha visto un'importante impennata e un'importante svolta, diciamo anche politica se vogliamo, rispetto al lavoro che viene fatto, rispetto alla questione della donna, rispetto all'ecologia, insomma tutta una serie di elementi che rendono la rivoluzione nel Rojava un processo di trasformazione sociale particolarmente interessante. Gli diamo la parola per raccontarci quello che sta succedendo, quello che succederà mercoledì e per raccontarci quello che è un po' il punto di vista del coordinamento toscano di sostegno alla lotta curda e appunto questo presidio, le sue implicazioni, perché nasce e perché c'è. Ancora la voce è sempre quella del nostro Vipera, che salutiamo e ringraziamo. Con questo, dopo il suo intervento, la nostra trasmissione per questa settimana finisce e ci rivediamo dalla prossima con i nuovi orari che preparatevi, saranno come è andata già da questa, saranno il martedì alle ore 13 e poi sempre le repliche nei soliti orari a cui siete già abituati, cioè il mercoledì alle 23:59 per non dire mezzanotte e il giovedì mattina alle ore 8:30. Un saluto a tutti e tutte, pugni chiusi, alla prossima settimana. Ciao! Ciao a tutti, mercoledì 13, dalle 18 alle 19:30 saremo a Campi Bisenzio, in via delle officine Galileo 1, in presidio con il Comitato per il Kurdistan, con il Comitato Toscano per il Kurdistan e la comunità curda in Toscana, per manifestare proprio di fronte alle ex officine Galileo, ora Leonardo Finmeccanica, a sostegno dello sciopero della fame di centinaia di prigionieri curdi che appunto stanno intraprendendo questa lotta per la libertà, il miglioramento delle condizioni, la libertà di Öcalan, detenuto dal 1999, da quando fu estradato dal governo D'Alema in Turchia, nell'isola carcere di Imrali, con appunto in completo isolamento, senza la possibilità di incontrare né avvocato né familiari. Solo poche settimane fa ha potuto incontrare suo fratello, e questo è avvenuto proprio grazie alla mobilitazione, allo sciopero della fame dei prigionieri e di prigionieri come Leyla Güven, parlamentare dell'HDP appunto incarcerata dal regime turco di Erdogan. Saremo lì anche per sostenere e manifestare il nostro sostegno alla rivoluzione curda nella Siria del Nord, all'esperienza del confederalismo democratico. Siamo davanti alla Leonardo Finmeccanica proprio non a caso, perché è una fabbrica che commercia e collabora con regimi come quello turco di Erdogan, ma non solo, pensiamo alle collaborazioni con Israele sulla sicurezza, su appunto i settori militari, e con altri regimi arabi quali l'Arabia Saudita ed altri. Commerciano con questi paesi in settori come appunto i sistemi per la difesa, l'elicotteristica, i velivoli, le aerostrutture, i sistemi avionici e spaziali e i sistemi elettronici per la difesa appunto sia terrestre che navale. Quindi una fabbrica che è il vanto dei nostri politici, dei nostri amministratori, ma che noi contestiamo in quanto esportatrice di guerra e in quanto appunto collaboratrice di questi regimi nella repressione delle esperienze progressiste, delle resistenze dei compagni in Medio Oriente. Quindi ribadiamo l'appuntamento dalle 18 alle 19.30, mercoledì 13, in via delle Officine Galileo 1 a Campi Bisenzio, di fronte alla sede di Leonardo Finmeccanica. Questa è una delle iniziative che portano sabato 16 alla manifestazione nazionale a Roma, in sostegno appunto ad Öcalan, ai prigionieri politici curdi in sciopero della fame, a tutti i prigionieri politici del mondo, e in sostegno all'esperienza del confederalismo democratico nella Siria del Nord. Invitiamo a controllare la pagina Facebook del coordinamento toscano per il Kurdistan, in modo da avere le informazioni sulla partenza del pullman e tutti i numeri utili per eventualmente prenotare dei posti. Grazie.